Il libro dei bambini di Antonia Susan Byatt, con l'accurata documentazione che caratterizza tutta l'opera dell'autrice, analizza usi, costumi e vicende di una borghesia illuminata inglese, quella fabiana, una sorta di socialismo dalle buone maniere, insomma, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Quando la Byatt si sofferma brevemente sulla particolare vicenda di una fattoria riconvertita dalle attività agricole alle pratiche intellettuali di alcuni fortunati fuggiti dalle grinfie asfissianti della vita cittadina, dice che tra le nuove attività che avrebbero riconferito un senso a questa fattoria erano stati programmati dei laboratori estivi. Fra questi laboratori, uno avrebbe dovuto essere dedicato all'intaglio del legno, un altro alla pittura del paesaggio e infine un terzo all'arte di scrivere. Si era nel 1903. Sociologicamente e psicologicamente ci si può chiedere a che esigenze della persona rispondano le scuole di scrittura, che funzione ideologica assolvano. Nel 1961 Carlo Della Corte e Alcide Paolini pubblicarono La mistificazione. In gran parte questo libro era costituito da una selezione di lettere di accompagnamento di scrittori aspiranti alla pubblicazione, no? Lettere con le quali accompagnavano l'invio della loro opera ai potenziali editori, e da una breve antologia dei testi relativi. Che si trattasse di scrittori scalcagnati dalla fragile grammatica e dall'ancor più fragile sintassi, e per di più, diciamo, a zero in fatto di tecniche retoriche, vabbè, qui per il momento non ha rilevanza. Rilevanza l'aveva per il libro che, sullo scandalo del paradosso, no, l'aspirante scrittore che innanzitutto non sa scrivere una lettera, beh, trovava l'unica sua ragione d'essere. Della Corte e Paolini fanno risalire lo scrivere e il voler pubblicare al trionfo del liberismo utilitaristico, cioè al fatto che a nessuno viene negata l'iniziativa, anche se questa iniziativa risulta di danno agli altri. E attribuiscono anche, oltre al trionfo di questo liberismo utilitaristico, ovviamente anche alla sua borghesia neocapitalistica, la cui politica culturale non prevede più di tagliar fuori le masse, con il risultato che, per l'appunto, con un paradosso che da lì in avanti sarebbe diventata moneta spicciola della chiacchiera culturale, Dino Buzzati poteva già affermare nel 1960 di aver l'impressione che su 50 milioni di italiani esistano almeno 52 o 53 milioni di scrittori, per lo più clandestini, aggiungeva ovviamente. L'ordine implicito che ci vorrebbe tutti scrittori verrebbe da lì. Come da lì, allora, conseguentemente, viene l'illuminazione per qualcuno di costoro di tirarsi fuori dal guano comune e insegnare agli altri. Le scuole di scrittura dunque prolificano, gratificando una vasta clientela. Il libro di Paolo Bianchi, Inchiostro antipatico, intingendo questo inchiostro ideale che l'ha generato un po' nell'insofferenza e un po' nell'amara riflessione, ha per scopo di dissuadere dal frequentarle queste scuole di scrittura, e per almeno una buona ragione, che non è detto però che sia anche sua, mi trova anche concorde. Come Bianchi dimostra sotto molteplici profili, contro le scuole di scrittura sono stati portati fior di argomenti, da quelli contro il prodotto finito. Solo in Italia ogni anno vengono prodotti circa 300.000 scritti, tutti in cerca di editore. Nel 2008, tanto per avere un'idea di come vanno a finire le cose, nel 2008 sono stati stampati 65.000 volumi, 180 volumi al giorno. Altre obiezioni, anche altri argomenti contro le scuole di scrittura, come quelli contro le vere e proprie forme di patologie che ingenerano nei produttori, gente che dalla propria opera si aspetta gloria e denaro, che fa dipendere la dignità di sé dal fatto di riuscire a pubblicare un libro, che nell'alternativa tra morte e libreria, dove peraltro è ben difficile che il loro libro arrivi, vede l'unico sbocco della propria esistenza. Non solo. Contro le scuole di scrittura sarebbero anche da prendere in considerazione le obiezioni relative allo scrivere stesso, alla funzione sociale dello scrittore, che Corrado Alvaro, scrittore anch'esso peraltro, considerava il servo colto, il perenne Esopo della società dominante. E infine sarebbe anche da prendere in considerazione l'obiezione più amata, quella più frequentata, più utilizzata, quella in ragione della quale l'arte non potrebbe essere insegnata in alcun modo, e dunque è bene che tutti quanti ci si levi dalla testa di poter imparare qualcosa di chiunque altro, fosse anche il più grande scrittore del mondo. Sono contrario anch'io alle scuole di scrittura, ma per tutt'altri motivi. Ho i miei dubbi politici sulla funzione del letterato e concordo sia con Corrado Alvaro che con Stephen King, un altro, quando dice che se intendete scrivere in totale onestà i vostri giorni come membro della buona società sono comunque contati. La letteratura svolge una funzione consolatoria e mistificante in quanto tale, ma non sono affatto d'accordo sulla questione dell'impossibilità di un insegnamento relativo a qualcosa che la riguardi. Ho l'impressione che questa obiezione riposi su quegli assunti misticheggianti duri a morire che vorrebbero l'artista e la sua arte esentati da qualsiasi analisi. A ciò mi ribello. E in nome della libertà dell'impresa scientifica dico che non accetto alcun impedimento di principio all'analisi. Che l'arte costituisca un osso duro, che il portarne alla luce gli intimi meccanismi costitutivi sia difficile, non vuol dire che provenga da ineffabili doni divini. So che una fortuna ancora più florida potrebbe toccare le scuole di scrittura se dovessero cadere sotto una legislazione proibizionistica. Non dico che i loro insegnanti diventerebbero ricchi come i commercianti di droga, ma di certo non vivrebbero più in quell'indigenza che ha costituito lo stigma artistico per eccellenza tanto a lungo e in ogni dove. Tuttavia, ponendo per il puro piacere dell'ipotesi, ponendo la questione di un nulla osta comunale o statale attinente all'apertura di una scuola di scrittura, direi che sarei favorevole al suo rilascio ad una condizione. Mi accontenterei che il pretendente, il suo fondatore, i suoi eletti insegnanti potessero riferirsi ad un modello convincente dei rapporti tra linguaggio e pensiero, perché ogni plausibile intervento sul linguaggio altrui e sulle forme della sua comunicazione non può che partire da lì, dalla consapevolezza dell'operare mentale in rapporto alla parola, poi alla frase e infine alla narrazione. Nell'inchiostro antipatico di Paolo Bianchi si fa cenno anche ad un episodio emblematico che, a vantaggio di tanti, potrebbe indurre, che so, la comunità europea ad emanare un codice di condotta che comprenda un articolo analogo a quello relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Raccontava dunque l'editore e figlio di editore Vanni Scheiwiller, persona colta, schiva e discreta come di rado mi è capitato di incontrarne, raccontava che nei giorni successivi alla morte del padre avevano allestito la camera ardente in casa. In quei dolorosi frangenti suonano la porta e appare uno sconosciuto con una busta in mano. Si presenta come un poeta che vorrebbe proporre la propria opera per la pubblicazione. Scheiwiller gli dice: mi scusi, ma questo non è il momento, non vede, siamo in lutto. E l'altro gli risponde: sì, sì, lo so, me l'ha detto il portinaio, condoglianze, però ecco, ecco, qui ci sarebbero le mie poesie. E a fronte di episodi come questi, questo è più penoso rispetto ad altri molto più seccanti, si potrebbe per l'appunto pensare al reato di molestie editoriali. Ma in considerazione del fatto che meno sono i lettori, più aumentano gli editori, ecco, quelli che stampano a pagamento, quelli che sulla malattia dell'autore ci campano, editori che negli ultimi 5 anni, anni di crisi, sono quasi raddoppiati, arrivando alla ragguardevole cifra di 10.000 editori in Italia, si potrebbe anche dire che allora tanti quanti sono gli editori molestati, forse di più crescono gli editori che ci stanno. Thank you.